Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Otto e 34 minuti, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno e buona domenica da Carlo Gabardini. Carlo, Milano-Monterosa, come andiamo? Bruttarello, pioggerellina, no, come ti dicevo prima. No, nebbia. No, ma no, ogni tanto anche delle goccioline. Anche delle goccioline, sospese. È che c'è questa sensazione che sia a gennaio, che può anche andare bene, non è che... Il problema è che siamo a maggio, fra pochissimo è Natale, è un disastro, perché io vedo questo clima e dico, vabbè, insomma, siamo ancora a inizio anno. Invece no, l'anno è praticamente andato, siamo quasi alla fine. Ci stiamo giocando. Maggio, che è uno dei mesi più belli dell'anno secondo me, ma quest'anno a Milano ancora non pervenuto maggio. Va così. Se avete buone notizie di sole, chiamateci 800 24 00 24, scaldateci con le vostre telefonate. Allora, naturalmente cerchiamo anche un personaggio della settimana. È domenica. Cavolo, sì, è domenica, quindi un personaggio internazionale. Beh, è un aiuto. Mi sembra questo. Perfetto. Cioè, è un aiuto. Come? Vero, non è una cosa detta. È un aiuto, quindi pensate, 800 24 00 24, una notizia che riguarda un personaggio internazionale negli ultimi 7 giorni. E il primo che indovinerà, come sempre, si porta a casa un bel libro a tema sui gli argomenti che tratteremo. Tratteremo degli argomenti, siamo così certo, bravi. Certo, degli argomenti. Anche la domenica si possono trattare degli argomenti. Notizie, riepilogo e qualche si può fare. Vai. Speriamo che domani non lo imbavaglino, ma lo lascino libero di lavorare. Se qualcuno pensa di fermare il procuratore di Catania, dovrà passare sul mio corpo e su quello di milioni di italiani. Aggiungo che la presenza negli organici di alcune organizzazioni non governative di persone con un profilo non collimante con quello dei filantropi appare di indubbia rilevanza e giustifica, a mio avviso, delle indagini in tal senso. Questo è un punto sul quale io ritengo che venga posta la massima attenzione. Insomma, va avanti la questione a suon di dichiarazioni che avete sentito, quella di Salvini e quella dello stesso PM Zuccaro, sulla questione dei presunti finanziamenti da parte degli scafisti alle ONG che portano, aiutano, salvano vite in mare. L'abbiamo già detto settimana scorsa, sì. In realtà la questione è interessantissima. Quello che chiediamo un po' a Zuccaro è di fare i nomi, insomma, se ha delle prove ben venga e ascoltiamole. Non è che è quello, giustamente ricordiamo, sì, che lui comunque ha detto esistono ONG che operano per solidarietà, Save the Children, Medici Senza Frontiere, giusto, non devono dimostrare a nessuno quello che fanno, nel senso che Zuccaro adesso ha un pochino più precisato e dice: se qualche organizzazione batte bandiera di paesi non collaborativi e si rifiuta di comparire davanti a voi per dichiarare la modalità del reperimento di fondi, allora bisogna fare chiarezza, ed è più chiaro. Poi, come sempre, Salvini la tocca piano e dice deve passare sul mio corpo e su quello di milioni di italiani. Però, insomma, a questo punto c'è un si può fare, siamo tutti d'accordo, indaghiamo e vediamo, certo, se ci sono responsabilità individuali, singole, di qualche esponente di qualche ONG. Lo dicono anche gli stessi rappresentanti delle ONG, che non hanno nulla da nascondere e di cui vergognarsi. Anche su questo, cari ascoltatori, 800 24 00 24. Nel frattempo è stata la settimana, una settimana nera, l'ho detto anche ieri, la nube tossica, la lume nera di Roma, i manichini appesi a Roma, una schifezza terrificante, la legge sulla legittima difesa, forse un mezzo pasticcio, un altro pasticcione dove pare che conti l'orario, dove di notte, di giorno. In realtà non è così, lo spiega Ermini intervenuto giusto proprio a Radio 24 l'altra sera, era quasi notte, quindi siamo a tempo. Era effetto notte. Era effetto notte, esattamente. L'unica cosa, non facciamo, non diventiamo, possiamo dirlo, è una cosa già detta mille volte, come l'America, perché io lo ricordo questo dato, ogni anno in America muoiono per armi private usate da singoli tante persone, poco più persone di quelle che sono morte in tutta la guerra del Vietnam, tanto per dare un'idea, no? E quindi, insomma, stiamo, pensiamoci un attimo prima di, diciamo, di dire liberi tutti, su questo. Sentiamo il relatore della legge del PD che spiega dove sta il busillis. Sento che viene detto che la difesa legittima scatta solo di notte, cosa che è falso, perché nella legge che è stata approvata oggi si parla certo del tempo notturno, ma successivamente c'è un ovvero, che vuol dire in tecnica legislativa oppure, quando l'aggressione avviene sempre, quindi con violenza sulle persone, sulle cose, con minaccia o con inganno. Quindi questa storia della notte è una bufala che qualcuno si è inventato e tutti gli altri gli sono andati dietro. Now it's all I can afford, but the Lord has sent me eternity. It's to save the little children in a poor country. Got my ticket to heaven, an everlasting life. I gotta ride all the way. Buongiorno e buona domenica, Vittorio Alessandro, presidente del Parco delle Cinque Terre, benvenuto. Buongiorno. Non so se, come dicono i Dire Straits, anche quello per le Cinque Terre potrà essere definito un biglietto per il paradiso, perché insomma, il Parco delle Cinque Terre è vicino a un'idea di paradiso. Tra l'altro, se per il paradiso costa anche poco. Quanto costerà il biglietto, a proposito? Il biglietto costa 16 euro per fare treno, pullman, sentieri, wifi, i servizi del parco. Ma la novità è che lei è il presidente del Parco delle Cinque Terre. Da quanto tempo? Non da molto. È arrivato trovando una situazione tra l'altro disastrata, è stato appena condannato. Spero che non sia in qualche modo un cattivo auspicio. L'ex presidente, poi ne parliamo. Da quanto tempo lei è presidente? Io sono presidente da 5 anni quasi. Perché quindi l'ex non sono neanche pochissimi. Insomma, no, in effetti sì, sono già 5 anni. L'ex presidente Bonanini si chiamano. Bonanini è stato condannato qualche giorno fa, se ho letto bene, in appello a 10 anni per truffa, associazione a delinquere, detto il faraone. Gli amici della Liguria lo conoscono, se lo ricordano bene. L'accusa è che si spartisse, lui e altri personaggi, i fondi, vero, per la gestione, la ristrutturazione del parco. L'accusa è un po' più articolata, cioè, io credo che sia stata una vicenda molto legata a effetti di separazione di questa comunità dal resto della Liguria e del paese. Ogni tanto succede che qualcosa parta per la tangente. Noi stiamo cercando di lavorare in stretta connessione con obiettivi condivisi e quindi queste scorciatoie ce le stiamo evitando attentamente. Cioè il parco era diventato un ente a sé stante, sì. un'entità lontana, anzi a volte in conflitto anche con i comuni, per esempio. Questo sta dicendo che lei sta lavorando con i comuni vicini, c'è sicuramente un forte lavoro di squadra con i comuni del parco. Ma è necessario assolutamente che fenomeni che sembrano fortunatissimi vadano invece accompagnati e vengano seguiti, perché dietro apparenti fortune spesso ci sono scorciatoie. Però, ecco, sì, lei dice stiamo lavorando coi comuni, però una cosa potrebbe mettere in contrasto, come è già successo anche in passato, il parco con i comuni delle aree interessate dal parco, è proprio questa la novità che state introducendo, cioè il biglietto, il numero chiuso per l'ingresso al parco. parco. Ci vorrà il biglietto per accedere ai sentieri che si inerpicano, chi li ha percorsi, sono una via bellissima, a picco sul mare, in mezzo agli alberi, tra le varie cinque terre. Perché questo contrasto? Perché lei vuole abbassare il numero di visitatori, è vero, con questo biglietto incassare sì, ma abbassare il numero, che ce ne sono troppi. Ci sono stati in passato anche dei problemi, ci fu il crollo di una parte della Via dell'Amore, ci furono dei turisti che rimasero coinvolti. Sì, è necessario che i turisti che vengono in qualche modo partecipino al nostro lavoro di manutenzione, di ricostruzione, ma il tema del biglietto per i sentieri è un tema che non mira sicuramente a chiudere, quanto piuttosto a regolare. E si fa il possibile anche perché intorno alle Cinque Terre, e in generale questo può valere per tutti i luoghi di eccellenza del nostro paese, si aprano bacini di altre possibilità nei confronti dei turisti. Per esempio? Pensiamoci al fatto che si possano far conoscere, magari le Cinque Terre saranno il richiamo, ma si possono far conoscere aree vicino alle Cinque Terre che sono altrettanto belle e interessanti. Cioè lei dice facciamoli venire qui, però poi non è che per forza devono andare tutti alle Cinque Terre, potrebbero andare anche in altri posti qua, limitrofi? Ecco, per esempio, ma siccome non vogliamo negare il passaggio alle Cinque Terre, certo, sicuramente non devono arrivare con l'idea che in ognuna delle Cinque Terre devono andare nell'arco di poche ore a fare il selfie. Certo. Credo che si debba inventare una cultura del turismo. Non abbiamo fatto molto su questo in Italia. Oggi c'è un impegno forte del Ministero dei Beni Culturali, ma siamo molto in ritardo. Cioè i turisti vengono accompagnati spesso in esigenze che loro stessi esprimono senza che vengano proposte delle possibili modalità di fruizione del territorio, ma soprattutto dei territori che sono abitati. Sì, però mi scusi Alessandro, perché prego. Questo è il sogno di tutti quelli che gestiscono luoghi legati al turismo, cioè tenerli lì, farli scoprire le meraviglie attorno, eccetera, eccetera. Però si sa che poi il turista è fatto così, arriva, vuole in poco tempo vedere, fare anche la foto, fare il selfie, perché no, magari senza mettersi su un picco, su una roccia. Legge Cinque Terre, vuole cinque selfie. Non è vuole che... cinque selfie e via. Questo è un po' il destino, no, del turismo. Però ci spiega bene, le faccio la domanda, poi facciamo le informazioni sul traffico e quindi le poi chiedo di rispondere dopo. Che cosa cambierà rispetto a come è adesso? Adesso che il passaggio, l'ultima volta che ci sono stato io è un po' di tempo fa, però non mi ricordo di avere pagato nessun biglietto. Cosa cambierà con questo progetto che state mettendo in campo e che, se non erro, me lo dica subito, debutta all'inizio di giugno, no? Sì, ai primi di giugno, e sarà sperimentale nella prima fase. Perfetto, allora tra poco 800 24 00 24, gli ascoltatori, se vogliono intervenire su questo, raccontare la loro esperienza sulle Cinque Terre e anche se sono d'accordo con questo si può fare, che il presidente del Parco Cinque Terre ci sta raccontando che possiamo dire, magari lei non è d'accordo, il numero chiuso per le Cinque Terre, si può dire? A me piace di più un numero gestito, un numero razionale. Numero giusto, numero giusto. Va bene. Sì, numero giusto. Traffico tra poco. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta. Allora, di nuovo con il presidente del Parco delle Cinque Terre, Vittorio Alessandro. Allora, veniamo a ieri, fino a ieri, mezzi di trasporto esclusi, si andava sulla Via dell'Amore e nelle Cinque Terre gratuitamente, si poteva camminare tranquillamente. Da domani cosa succede? Ci sarà un biglietto e si dovrà prenotare? Dunque, il biglietto c'è, ma si dovrà prenotare, ma soprattutto bisognerà seguire quelle che sono le informazioni che noi daremo ai turisti che ci vengono a visitare. Però scusi, andiamo per ordine, quanto costerà il biglietto? Il biglietto per i sentieri costa 7 euro. 7 euro. E sono i sentieri, il luogo sul quale noi abbiamo introdotto un contapersone che ci ha negli ultimi tempi dato i picchi, i numeri che consideriamo in alcuni momenti insostenibili. Per esempio, ci faccio un esempio, a Pasquetta so che ci sono state 4.000 persone. Esattamente. E lei però dice sono troppe. Sono soprattutto concentrata in alcune fasce orarie, e su quelle fasce orarie noi vogliamo intervenire per evitare che si creino non soltanto pericoli, ma anche condizioni di fruizione del sentiero che diventano scomode, poco agiate, anche per vedere il paesaggio, che poi è la mira del... Cioè si è in coda praticamente, si rischia di essere in coda sulla Via dell'Amore e non vedere nulla, uno attaccato all'altro. Beh, è giusto essere in coda sulla Via dell'Amore, giustamente bisogna anche aspettare. Ma le volevo chiedere, quindi in realtà a un certo punto non staccherete più biglietti, nel senso che lei dice 4.000 sono troppi, costa 7 euro per entrare, dopo 1.500 voi dite scusate, al momento siamo pieni? Sì, noi daremo il bollino rosso in quelle fasce orarie, in quei momenti di picco, daremo il bollino rosso che apparirà sull'applicazione che i turisti avranno scaricato. Il che però consentirà o non consentirà di comprare il 1501esimo biglietto, cioè sarà impedito? Naturalmente, così come accade nei musei, così come accade nei luoghi chiusi in cui i posti sono misurati. Limitati. Sarà regolamentato e quindi... Noi non consideriamo questi sentieri molto diversamente da come si consideri un museo. È come se fosse un museo. Oggi in molti musei, in effetti, se c'è il pienone all'interno ti fanno aspettare fuori, e quando poi sono uscite tot persone, altre tot possono entrare. Quindi lo stesso meccanismo volete fare voi. E la prenotazione avverrà tramite una app che state mettendo a punto? Che è stata già messa a punto e che sperimentalmente dal primi di giugno noi metteremo a disposizione dell'utenza. Così come dei primi di giugno sarà possibile acquistare online, finora non lo era, il biglietto per accedere alle Cinque Terre. Però mi scusi, può succedere quindi che ne so, tutto giugno i biglietti vadano esauriti e quindi chiunque arrivi alle Cinque Terre o in Liguria già sa che fino al 7 luglio non potrà venire a fare i sentieri, è così? Guardi, il lavoro che abbiamo fatto negli ultimi mesi è quello cioè della stima delle persone, ci ha dato idea che non ci saranno queste pressioni così forti. Abbiamo verificato cioè che i picchi che consideriamo gravi sono molto ridotti, su quelli però dobbiamo intervenire assolutamente. Non pensiamo che possa quindi esserci un grande sacrificio nei confronti dei turisti, cioè da parte dei turisti nell'affrontare questa potrebbe succedere al contrario. Adesso voglio vederla io positivamente, che uno che sta studiando un itinerario in Italia e sa che deve prenotare per le Cinque Terre, va sulla app, guarda, dice guarda, non andiamo il 5 di aprile perché c'è già il bollino rosso, andiamo il 10, che alla fine del nostro giro in Italia, della nostra settimana in Italia, perché non c'è più il bollino rosso. E questo, così si divideranno oppure, meglio. E questo potrebbe a meno che in quel momento ci sia bollino rosso anche agli Uffizi, perché lì poi può succedere. Può succedere. Oppure più agevolmente per noi, piuttosto che il sentiero X, il sentiero Y. Però alla fine la domanda che le voglio fare, contate di avere più o meno turisti di quelli che ci sono attualmente, quindi per i comuni della zona, per l'indotto, per i ristoratori, per i commercianti, per tutti, c'è qualche cosa da temere sul numero complessivo dei turisti? Perché questa può essere una preoccupazione che c'è. Naturalmente ci poniamo questo problema, però insieme agli operatori, insieme ai sindaci abbiamo condiviso un percorso che mira a obiettivi di qualità. La quantità a questo punto è ampiamente ottenuta e non credo che diminuirà. Tutte le esperienze, diciamo, questo è il suo auspicio, poi chiaramente bisognerà... Anche le esperienze ci sorreggono insomma in questa direzione, perché non ci sono state, non è stato depresso il turismo laddove si è cercato di regolamentare. Però la domanda delle domande è quella, credo, sul biglietto vuoi fare anche tu, cara. Allora, prego, diciamoglielo insieme: chi incassa i soldi del biglietto? È una cosa molto importante, molto bella questa, perché ad esempio il biglietto che noi condividiamo come progetto con Trenitalia per accedere alle Cinque Terre, cioè il biglietto per prendere il treno, è un biglietto con il logo di Trenitalia e del parco. Le risorse, le entrate di questo biglietto quindi vanno a Trenitalia per la quota spettante e al parco, che può così ai comuni conferire i finanziamenti per la manutenzione dei sentieri e per la realizzazione di servizi. Cioè è il parco che consegna ai comuni delle risorse, non esattamente. Quindi i comuni direttamente non incassano. I comuni, come tutti i comuni d'Italia, sono poveri. I comuni che sostengono il turismo, parlo delle amministrazioni, non degli operatori, sono poveri, in quanto diventano all'improvviso, durante il lungo periodo estivo, che non è solo di 3 mesi, diventano comuni con 10.000 persone, dalle 900, 800, 400 che ne hanno in inverno. Hanno anche dei costi, probabilmente, perché devono anche gestire questo flusso di turisti. Per esempio, quindi i rifiuti. È giusto, esatto, certo, che abbiano certo. Anche una parte. Allora, e quale parte dell'incasso, mi scusi, l'accordo con i comuni è che il parco dà poi a questi comuni? Non c'è una quota fissa, però noi sappiamo che, ferma restando la quota di Trenitalia che dobbiamo rendere, il resto sono quote per l'accoglienza dei turisti e la quota per i comuni, che devono di volta in volta gestire, a seconda delle situazioni, la manutenzione dei sentieri, la realizzazione di opere. Ma è a discrezione del parco, quindi? È il parco che decida quali comuni e per quali opere erogare dei fondi? Il parco ha una sua comunità formata dai sindaci, quindi sono di nuovo alla loro. Presidenza si accompassa certamente. Certo, certo. Quindi i progetti sono condivisi, i bilanci non sono trasparenti, e questo è appunto il progetto di turismo sostenibile di cui si parla in Europa, la nostra carta europea per il turismo sostenibile. Dobbiamo chiudere. Comunque ha spiegato, credo, molto chiaramente, grazie Vittorio Alessandro, grazie, del Parco delle Cinque Terre, quello che sarà la gestione dei turisti con un biglietto per entrare nel Parco delle Cinque Terre. Domenico da Roma, lo sentiamo direi dopo il GR, perché non abbiamo tempo. Ascoltatori 800 24 00 24, stiamo anche cercando un personaggio della settimana, che è un personaggio internazionale. Il segnale orario vi è offerto da Pantera di Infracom. È il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. French election is very important to the future of France and the values that we care so much about, because the success of France matters to the entire world. I have admired the campaign that Emmanuel Macron has run. He has stood up for liberal values. He put forward a vision for the important role that France plays in Europe and around the world, and he is committed to a better future for the French people. En marche, vive la France! En marche, vive la France, pronunciato da Barack Obama, che ha fatto questo endorsement nei confronti di Macron. Qualcuno dice, beh, insomma, gli endorsement di Obama non portano bene perché sono finiti male. Di solito quello per Renzi, il referendum costituzionale. Ma noi possiamo la parlare Brexit. perché non siamo in Francia? Secondo perché me se qualcuno parlare, oltre confine sì. Ci ascolta, peggio in realtà per c'è lui. Il silenzio elettorale. Stanno votando, giusto? A ecco Parigi sì. Stanno votando per il ballottaggio fra Macron e Le Pen. Momento e credo storico. Che stasera ci sarà La maratona sì, probabilmente sì, sì. Uno speciale anche a Radio 24, naturalmente dalle 19 alle 21, con Gigi Donelli e tutta la redazione impegnata, inviato a Parigi, eccetera, eccetera. Allora, adesso è il momento delle nostre 5 migliori notizie della settimana, vai! Eccolo qua, si può five! Cominciamo con questa. Quinto posto, azienda veronese restaura gratis il balcone di Giulietta. Ebbene sì, la Tecno Red restaurerà completamente, gratuitamente, il balcone dove, pensate, dal quale solo nel 2016 si sono affacciate quasi 392.000 persone dalla casa di Giulietta, insomma... personaggio celeberrimo di Shakespeare. Celeberrimo, bravi, quarto bravi, posto. Quarto posto, Parigi, tassista restituisce un fontana da 1,5 milioni di euro. Ha trovato un'opera d'arte appunto da 1,5 milioni di euro e l'ha restituita alla polizia. Bravissimo. Questa è la buona notizia ed è il si può fare. Quello che era forse un non si dovrebbe veramente fare è come è nata tutta questa cosa, nel senso che un mercante d'arte prende un taxi e mette un fontana nel bagagliaio, scende dal taxi e se lo dimentica. Ma come ti puoi dimenticare attaccare un Fontana da 1,5 milioni. Ovviamente è una delle famose tele lacerate di Lucio Fontana. L'onestà di questo tassista è incredibile. Allora, è apprezzabile naturalmente. Terzo posto, siamo sul podio. Questa notizia è molto molto bella, mi sta molto a cuore. Cesena, la prima scuola d'Italia a riconoscere i giovani caregiver. Di cosa si tratta? Si tratta del fatto che in Italia ci sono quasi 200.000 giovani che si prendono cura ogni giorno di un familiare o malato o bisognoso in qualche modo di cure. Allora l'istituto professionale di Cesena Macrelli ha deciso di inserire questi giovani in percorsi particolari di scolarizzazione. Insomma, potranno avere dei tutor, potranno avere le interrogazioni programmate oppure anche derogare al tetto massimo di assenze da scuola, perché in effetti chi ha un familiare che deve aiutare e curare ha delle esigenze particolari, è un peso, però è un grande atto di generosità. È giusto che questa scuola, la prima in Italia, ne lo riconosce, ne prende atto. Speriamo che avvenga anche altrove. Posizione numero 2, sempre sul podio, le bacche di goji, perché le bacche di goji sono il più potente antiossidante naturale. Se ne è occupato anche il CNR facendo delle ricerche, quindi non è semplicemente una cosa che si dice così come a volte quando si parla di certi prodotti bio. Pare, io sono un grande mangiatore di bacche di goji, perché pare che per i fumatori siano effettivamente un ottimo antiossidante. Ma la notizia è un'altra, perché solitamente quelle che noi mangiamo sono provengono dalle zone originarie della pianta, quindi Tibet, Nepal, Cina, crescono spontaneamente nelle valli himalayane e in Mongolia, e invece da adesso si è scoperto che può crescere anche in Italia, dove ci sono le condizioni climatiche ideali per la pianta, e quindi è nata una filiera italiana delle bacche di goji. Bene. In Maremma. Chi l'avrebbe detto? Primo posto, prima bella notizia di questa settimana, torna il Giro d'Italia, iniziato due giorni fa, torna Ride Green, i bidoni di raccolta differenziata a ogni tappa donati proprio ai comuni che ospitano il Giro d'Italia. Saranno 1200 contenitori, perché come ogni grande evento sapete che si crea tutta una sporcizia sulle strade. Io mi ricordo quando andavo a vedere il Giro vedevi bottigliette di plastica ovunque, come quando ci sono le maratone. Ecco, questa volta e per l'ennesima volta il Giro d'Italia sarà green, perché questi bidoni consentiranno ai comuni di raccogliere tutto e poi saranno donati ai vari comuni che quindi avranno a disposizione. Aggiungo anche dopo. Solo che mi sembra un'ottima notizia, perché invece di solito il Giro sembra non fare un'ottima pubblicità, perché i ciclisti quando prendono al volo la bottiglietta bevono, è in plastica, e la lanciano, perché giustamente devono andare in volata. Però con questi bidoni qualche spettatore raccoglierà anche le bottiglie dei ciclisti e le metterà nel giusto bidone. Se poi smettessero anche di doparsi sarebbe perfetto. Vabbè, quello non inquina. Un saluto a tutti i ciclisti onesti e puliti, un grande abbraccio. Che succede, ascoltatori? Matteo da Milano, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buona domenica a tutti. Io volevo consigliare a quello che ha parlato prima, il responsabile del parco delle Cinque Terre, che secondo Vittorio Alessandro, il presidente del parco delle Cinque Terre. Sì. Secondo me il biglietto sarebbe più furbo fare un costo variabile, come fanno adesso per gli aerei, per tutto. Così se un turista ha poco tempo ed è magari poco sensibile al costo all'aumento del prezzo del biglietto, e se lo può permettere, può comunque vedere ciò per cui lui magari si è recato apposta. Perché se un turista. Beh, però questa strategia commerciale, Matteo, potrebbe valere per tutto a un certo punto, no? Può valere per tutto, infatti secondo me dovrebbe valere per tutto, perché è veramente antipatico recarsi in un posto per vedere una cosa e poi non la si può vedere. No, ma non ho capito se stai dicendo che nei momenti di minore afflusso dovrebbe costare meno, o se stai dicendo che deve esserci sempre la possibilità con 30 euro di entrare, perché uno ha i soldi e quindi deve pago 500 euro, voglio entrare, questo dici? Entrambe le cose, innanzitutto quando non c'è nessuno, uno magari vuole usare le passeggiate delle Cinque Terre giusto per farsi una passeggiata, non per spenderci tutto il giorno, e c'è bassa affluenza, non dovrebbe pagare niente. Questo è possibile, ma è un po' più complesso di così. Difficile organizzazione. Secondo me sarebbe un po' spiacevole che uno arriva lì e dice io pago 100 euro, fatemi entrare, e quello che 100 euro non ce l'ha rimane fuori. Questo sarebbe brutto. Poi ti immagini Liguria, le discussioni del tipo ma tu quanto hai pagato? Io sono entrato, ho visto le 5 Terre con solo 2 euro, io ho pagato 3,70 euro. Va bene, andiamo con Andrea da Novara, buongiorno. Andrea è caduto. Domenico da Roma, benvenuto. Sì, buongiorno. Buongiorno. Ciao. No, ciao, ricordiamo anche che stiamo cercando un personaggio della settimana che è un personaggio internazionale, quindi cercate una notizia degli ultimi 7 giorni che riguarda un personaggio internazionale. Scusa Domenico, vai. Esatto, io chiamo proprio per quello. Penso che il personaggio, visto che è internazionale, potrebbero essere le donne venezuelane che sono scese in piazza contro la repressione durissima di Maduro. È un bel personaggio e sarebbe anche un bel si può fare. Sì, hai ragione, ci hai quasi fregato. Hai molta ragione. Perché non è questo, grazie però. Grazie d'aver ricordato tu la notizia, le donne venezuelane in piazza. È più di un mese che in Venezuela vanno avanti queste proteste, la polizia spesso e volentieri, malvolentieri forse, reprime, con anche feriti. E quindi, no, però non era questo il personaggio a cui avevamo pensato. Un pensiero alle donne venezuelane. Venezuelane. 800 24 00 24, invece cerchiamo ancora. Ci fermiamo, c'è il traffico, poi torniamo tra pochissimo. È una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza seppe imporsi a tutta la cittadinanza. È una danza, ma si pensa, rappresenti l'abbandono di una stronza, dal calvario alla partenza, fino al grido conclusivo di esultanza. Uomini, uomini, c'è ancora una speranza, prima che un gesto vi rovini l'esistenza, prima che un giudice vi chiami per l'udienza, vi suggerisco un cambio di residenza. Poi ci vuole solo un poco di pazienza, qualche mese già nessuno nota più l'assenza, la panacea di tutti i mali e la distanza, e poi ci si consola con la baranza, la baranza. Buongiorno Rossano Ercolini. Buongiorno. Ben ritrovato. Dove ti trovi? In una delle tante tappe del tuo giro? No, sono di riposo. Ma come? Oggi stanziale? Sì, sono proprio a casa. No, così non va bene. Ma come? Ascoltarci. Rossano Colì che gira l'Italia per raccontare pregi e virtù del movimento Zero Rifiuti. Anche solitamente lo sentiamo sempre in treno. In treno, in qualche città sperduta a fare comizi. Rossano, ma oggi è un giorno speciale per te? O no? Sì. Ma è una bella giornata qui da noi. C'è il sole, non so da voi. No, da noi no, però anche da noi è il 7 maggio. Ah, ecco, 7 maggio. 7 sì. Maggio, sì. Cosa è successo il 7 maggio di tanti anni fa? Sentiamo un po'. Non so. È il tuo compleanno. Vabbè, non volevo. No, vabbè. Abbiamo visto su Facebook. Volevamo quindi farti gli auguri. Grazie, ti disturbiamo sempre di sabato e di domenica. Una volta che di domenica cade anche il tuo compleanno, come minimo ti volevamo fare gli auguri. Allora, però abbiamo sentito la paranza di Daniele Silvestri. Perché? Perché c'è una notizia incredibile di questa settimana, che è questa, riguarda l'olio delle fritture, immagino, ma non solo. Delle fritture nelle nostre case, nei nostri ristoranti, tutti gli oli usati. Italia capofila per il recupero degli oli usati, ora lo insegnerà addirittura a tutta l'Europa, all'Unione Europea. Siamo arrivati primi. Una cosa pazzesca. Questa è la notizia pazzesca. È il segno, no? Ce lo siamo dette tante volte, ce lo siamo detto che l'Italia è un paese dove purtroppo si trova a volte il peggio, però tante volte troviamo il meglio. Questo è un esempio di come nel campo del riciclo l'Italia sta segnando dei poderosi passi in avanti. È la seconda industria mondiale del riciclo dell'alluminio. Siamo all'avanguardia per quanto riguarda gli oli lubrificanti. Abbiamo traguardato il 50% nazionale di raccolta differenziata. Insomma, se puntiamo su questi aspetti che sono interni all'economia circolare, credo che saranno soddisfazioni non solo sul piano, diciamo, psicologico dell'orgoglio del nostro paese, ma anche sul piano dell'economia concreta. Ecco. Ho letto che il 95% dei lubrificanti usati in Italia è avviato a rigenerazione, e la cosa che mi piace, visto che per una volta abbiamo vinto, è che abbiamo vinto con 8 anni di anticipo sui limiti prefissati. Cioè, in pratica noi adesso passiamo il traguardo, poi ci mettiamo ad aspettare, dobbiamo aspettare 8 anni prima che passi la prossima nazione, giusto? Sì, noi spesso abbiamo il complesso di inferiorità nei confronti degli altri grandi paesi europei. Ma un vantaggio di 8 anni è un vantaggio pazzesco. Io credo che sia del tutto ingiustificato, perché ecco, forse queste notizie dovrebbero trovare tutta la stampa per schierata a pelle di leopardo, lo penso anch'io. Sì, sì, le prime pagine ci vorrebbero. Risultati dell'industria, perché questa operazione di rigenerazione degli oli lubrificanti è intanto a vantaggio dell'industria, perché li riusa con le proprie finalità, e poi sono a vantaggio dell'ambiente, ma anche dell'economia, perché sempre nella stessa notizia, se non sbaglio, si parla di 3 miliardi. Esattamente, infatti sei bravissimo, perché giustamente anche chi ci ascolta poi dice sì, ma che cosa porta tutto questo? Dal 1984 la rigenerazione degli oli lubrificanti usati ha permesso all'Italia di risparmiare 3 miliardi di euro. Non sono bruscolini, come diceva qualcuno. Sarà che invece noi abbiamo invece altre notizie, ci arrivano. Questa notizia qua, per esempio, è passata sotto silenzio, invece si è visto ampio spazio per Roma, di nuovo emergenza rifiuti legata ai ponti di Pasquetta e Primo Maggio. Mi sta andando via la voce, come sempre ogni mattina. Che consigli daresti, Rossano Ercolini? Come si fa a minimizzare, per esempio, l'impatto delle ferie, di quelle che fanno la raccolta differenziata in quei periodi e si vedono i cassonetti esplodere? Poi a Roma sappiamo che il problema è grosso, deve ancora essere trovata un'alternativa alla mega discarica più grossa d'Europa. Beh, il discorso di Roma purtroppo bisogna dire che è molto complicato. Probabilmente ci sono anche obiettivi politici in questi scandali annunciati. Sicuramente AMA, che è l'azienda che raccoglie rifiuti, li gestisce, non è mai stata in una fase ottimale, e non è facile gestire un carrozzone di quel tipo. Ci si aggiunge il fatto che gli impianti di trattamento meccanico biologico vanno a singhiozzo, il tutto crea questi disservizi. Ovviamente Roma, che è una città molto ospitale, ricordiamolo, perché ogni giorno ci sono manifestazioni, quindi anche per chi gestisce rifiuti non è semplice venire incontro. Bisognerebbe forse organizzare una task force, visto l'immagine negativa che Roma ha assunto un anno fa, andò su tutti i giornali, su tutte le televisioni. Beh, forse l'amministrazione dovrebbe curare non solo la sostanza, ma anche l'immagine di una città che ci proietta nel mondo. E come farlo non è semplice con qualche frase ad effetto riuscirvi, però cominciare drasticamente a perseguire questo obiettivo di risanamento di un settore che, lo dicevamo prima, può anche dare delle enormi soddisfazioni se c'è la volontà di coinvolgere la città, per esempio, coinvolgere le associazioni, coinvolgere i municipi, lavorare di più a stretto contatto con i cittadini. È un mare magnum Roma, però una svolta, il senso di una svolta può esserci. E lavoriamo, noi sappiamo, tra l'altro, la Pinuccia Montanari, il nuovo assessore, insomma, sì, l'assessore in carica, di avere questi successi. Noi gli abbiamo dato tutta la nostra disponibilità come Zero Waste Italy. Io so che, tra l'altro, molti comuni, Roma compresa, ma anche Livorno e altri, stanno lavorando a stretto contatto con voi di Zero Waste, Zero Rifiuti, Rossano Ercolini, Enzo Favoino, che insomma, quasi da dei contestatori, io lo dico sempre, sembravate degli anarchici rivoluzionari che non volevano gli inceneritori, siete diventati i guru a cui tutti vanno a chiedere, perché si è capito che bisognava fare come dicevate voi. Allora, però, tu hai preso il premio Goldman nel 2013, se ricordo bene, era quello l'anno. Quest'anno è una tradizione. Il Nobel esatto. per l'ecologia, per l'ambiente. È una tradizione, noi ogni anno che viene assegnato questo premio al nuovo uomo ambientale dell'anno, ti chiediamo di raccontarci la figura. Questa volta si chiama Rodrigo Tot, è un indigeno guatemalteco che da 43 anni combatte le multinazionali del nickel. Sì, io personalmente non lo conosco, non l'ho incontrato, però so che la Fondazione Goldman mette tanto impegno nel sostenere queste figure, che bisogna dirlo, insomma, non lo dico certo con invidia, tutt'altro. Sono figure che, a differenza di noi europei, dove bene o male le nostre società sono evolute, fondamentalmente democratiche, ma in questi paesi come il Guatemala, il Centro America, il Sud America, si rischia letteralmente la vita, vedi la vicenda di Berta Caseras, insomma. Certo. Quindi la Goldman Foundation effettivamente svolge con questo premio anche un lavoro molto meritorio, perché nel momento in cui fornisce visibilità, racconta la storia di persone che altrimenti sarebbero, certo, ignorate, isolate, sconosciute, invece sono, ecco, persone che fanno il giro del mondo, offre a loro diciamo quella opportunità di essere, diciamo, isolate, e quindi poi, come potrebbe succedere, anche messe sotto silenzio. Poi la battaglia, l'estrazione del nickel dalla foresta, insomma, si abbattono gli alberi per estrarre questo minerale fondamentale per la realizzazione dell'alluminio, è una battaglia che riguarda tutte le nostre foreste primarie del pianeta. Quindi grazie a persone come Rodrigo, che davvero portano alto l'impegno per la tutela dell'ambiente. Tra l'altro siete complementari, voi in Europa col Movimento Zero Rifiuti, e uno come Rodrigo, questo contadino guatemalteco, che difende il suo territorio, perché il nickel noi ce l'abbiamo, no, Rossano? Sta nei cassonetti dei rifiuti. Bravissimi. Abbiamo studiato da te, sì, quindi. Certo, è la nostra miniera urbana, noi dobbiamo recuperare i metalli, non c'è partita, si dice, bisogna estrarli, noi non ce l'abbiamo sul nostro territorio. L'industria, sì, dell'alluminio è la seconda industria mondiale del riciclo, dopo il Giappone ci siamo noi, quindi è davvero uno sforzo su cui investire nell'economia circolare per estrarre i metalli preziosi, le cosiddette terre rare, dai computer, dagli iPhone. E in questo processo quanti posti di lavoro si potrebbero non abbiamo miniere, ma abbiamo tantissimi cassonetti, come abbiamo appena visto a Roma, quindi dovremmo essere, sì, dei grandissimi estrattori. Stracolmi, purtroppo. Sulla questione di Roma volevo solamente aggiungere una cosa, perché giustamente tu parlavi dell'AMA che ci sta provando in tutti i modi. Ricordiamo anche che tutto quello che sta succedendo a Roma il 25 aprile, il ponte del 1° maggio, dalle notizie che sono arrivate si dice anche da 2 giorni c'è un materasso in strada, da 2 giorni c'è uno scaldabagno, sì, una traversa. Ecco, molte di queste cose qua in realtà è più responsabilità dei cittadini, perché i materassi e gli scaldabagni sono rifiuti non dovrebbero stare in strada. Quindi è anche un po' difficile se tu come cittadino lo butti giù dalla finestra, poi dopo dici l'AMA non pulisce. C'è anche una responsabilità dei cittadini, c'è il fatto che dobbiamo lavorare tutti insieme, stare tutti dalla stessa parte. Per esempio, condivido, sì, va bene segnalare, però va bene, soprattutto va meglio collaborare, responsabile, sì, sì. E soprattutto, giusto, mai abbandonare rifiuti dove non si dovrebbe, bisogna sempre andare a cercare un'oasi ecologica. Adesso io non conosco la situazione a Roma, può darsi che ce ne siano troppo poche e che bisogna fare magari 40 chilometri per trovarne una vicino casa, e che non va bene, devono essere tante. Il problema è che non si può recuperare un gap decennale in 3 giorni, bisogna un pochino anche riconoscerlo. C'è tanto, dal mio punto di vista, di politichese in queste polemiche. Bisogna rimboccarsi le maniche e organizzare anche dei gruppi di cittadini. Quando successe della brutta figura a livello internazionale, ci furono appelli, la gente andava a ramazzare la città. Ecco, forse non bisogna farlo in modo improvvisato, coinvolgere il volontariato e insieme al pubblico andare per tenere pulita questa città bellissima. Via Gigi Spaducci, ci arriva la foto di un ascoltatore, cassonetti stracolmi, è così, però giustamente dice Rossano Ercolini, non è che possiamo sorprenderci di questo, ci vuol tempo, non si esce da questa emergenza, da questo, come lo vogliamo chiamare, disastro ambientale di Roma sui rifiuti, dove per anni si è fatto il contrario di quello che si sarebbe dovuto fare, non si esce in 3 giorni, quindi aspettiamo. Sì, questo è un lavoro di lunga lena, naturalmente cioè tu ci stai dicendo dicendo che ecco, dia dei segnali. Ci stai dicendo che la nuova amministrazione si sta mettendo sulla, sulla giusta strada, secondo quello che si riesce a capire. I primi passi noi li giudichiamo positivamente, poi si fa sempre di meno, andrebbe fatto sempre di più, è meglio, è il nostro compito segnalarlo, però non si può pretendere che, cioè, sono situazioni che durano da 40 anni, no, non si può fare i finti tonti e dire c'è un materasso fuori, la colpa piove, governo ladro, insomma cerchiamo un attimino di rimboccarci le maniche e lavorare per la soluzione strutturale di queste questioni, promuovendo il porta a porta, la raccolta differenziata, più isole che sta, ecologiche. Sta il porta a porta che sta conquistando, arriverà a Roma, sta arrivando a Torino, nelle grandi città, a Livorno, quindi insomma la strada è quella. Grazie Rossano Ercolini, un grande grazie abbraccio ancora, tanti auguri. Tanti buona auguri. Domenica, buona trasmissione, ciao. Grazie, ciao. Ciao. Si imparano sempre tante cose, c'è niente da fare con Rossano Ercolini, tantissime cose. 800 le miniere 024. Urbane, ho apprezzato molto, cazzonetti 024. Come miniere urbane. Vi aspettiamo ascoltatori tra poco, dopo la pausa, facciamo un ascoltatore, sì, così, vai, una puntura di spillo, Fernando da Viterbo, vai. Sì, buongiorno. Buongiorno. Prego, Fernando. Sì, penso che sia Sanssouci. Stiamo parlando del personaggio della settimana. Sì, Aung sì. San Suu, perché Aung San Suu Kyi? Perché mi pare che sia andata da... Se non sbaglio, se la memoria può darsi che mi no, no, no, no, c'è la notizia, c'è, vai Fernando, dici. È andata dal Papa e ha regalato, mi pare, un Corano e il Papa gli ha restituito, gli ha dato le sue ultime riflessioni. Meditazioni o encicliche, non lo so, no, non conosco i dettagli dell'incontro. C'è stato in effetti l'incontro e in effetti poteva essere personaggio internazionale della settimana, ma non era lei a cui avevamo pensato. Fernando, grazie. Ok, buona giornata anche a te, Fernando. Facciamo una piccola pausa e torniamo tra un attimo. Il prestito ponte è fatto a condizioni definite con l'Unione Europea, condizioni di mercato, perché così deve essere, è Euribor più 1000 punti, quindi non è un prestito affatto diciamo, a buon prezzo, come del resto è giusto che sia nelle condizioni date. Allora, commissari e prestito ponte per l'Italia questa settimana, lo annuncia il ministro Calenda, devono valutare se ristrutturare o vendere in qualche modo la compagnia. Prestito ponte, un ponte verso l'infinito, perché credo che questi soldi non li rivedremo mai più. E vabbè, insomma, non è né il primo né l'ultimo prestito ponte. 800 24 00 24, questa era la notizia della settimana. Andiamo con Franco che chiama da Torino, buongiorno. Buongiorno a voi e buona domenica. Grazie, buongiorno. Su cosa... telefonavo per appunto il personaggio della settimana, ricorre l'anniversario della tragedia di Superga, quindi riferita al grande Torino. Assolutamente una storia incredibile questa qua. Franco, tu chiami dalla Torino. Da Torino, quindi sei tifoso granata, immaginiamo. Sì, indubbiamente ieri potevamo concludere anche in bellezza la settimana, però come vero. Al solito al 91esimo, 92esimo prendiamo il solito gol che ci umilia sempre. Però non era questa, ma ti ringraziamo molto per aver ricordato la storia di Superga. Andiamo con un secondo indizio, lo vogliamo dare un secondo indizio? Lo do, è un indizio buffo, buffo, ma che dovrebbe potervi stretto, aiutare. Il personaggio che stiamo cercando è campione mondiale di taglio nastri. 800 24 00 24, Maria da Bergamo. Pronto, buongiorno. Pronto. Buongiorno. Ecco, io volevo intervenire, anche se un po' in ritardo, sulla questione del Parco delle Cinque Terre. Dici tutto, il allora, progetto che ha annunciato il Presidente. Abbiamo la fortuna di avere una casa in zona, sì. E, per cui conosciamo, non dico bene, comunque conosciamo un po' la situazione. Prima di tutto, non è una novità che i sentieri siano a pagamento, perché per esempio il tratto Monterosa-Vernazza è a pagamento da tempo. E costa 8 euro, è giusto? Sì, No, no, perché qualcuno ci ha mandato degli sms, così ne approfitto della sua telefonata per rispondere anche a chi ci ha mandato gli sms, che ovviamente leggiamo, dove diverse persone ci avevano detto che già si pagavano 8 euro per il tratto che ha descritto. Guardi, lei l'importo esatto non lo conosco. Prego, però prego. So che si paga già un importo. Seconda cosa, io spero che facendo pagare questa cifra importante abbiano nel frattempo sistemato quei sentieri che sono stati danneggiati durante l'alluvione dell'ottobre 2011 e che sono stati per tanti anni veramente trascurati in una maniera incredibile. Beh, questo ce lo deve dire lei, è lei la nostra inviata sul campo. Sì, ma infatti guardi, io stavo organizzando per degli amici un percorso lungo le Cinque Terre, ho telefonato per sentire un po' la situazione e buona parte dei sentieri era ancora chiusa. Terza cosa, essendo spesso sul territorio vorrei fare qualcosa anche per quel posto magnifico che sono le Cinque Terre. Per esempio sulla strada panoramica ci sono dei turisti, spesso sono turisti, cioè qualche volta sono turisti incivili, oserei dire, sì, che lasciano cartacce, bottiglie di plastica nei punti panoramici. Ho scritto al Parco delle Cinque Terre. Ma è inutile, guarda, Maria, ci vuole che qualcuno controlli, ci sono anche dei reati specifici, forse andrebbe aggravata la previsione di pena, sono d'accordo, perché quando uno è in un posto così a numero limitato, in un posto particolare come per esempio la via dell'amore sulle Cinque Terre, lasciare rifiuti o delle cose in quei posti lì è particolarmente grave e criminoso. Grazie Maria. Allora c'è un ascoltatore che chiama al 349-238-6666, scrive e dice: volete giustificare le incapacità dei 5 Stelle perché Rossana Ercolini ha parlato di rifiuti quarantennali a Roma? Non vogliamo giustificare nulla, però non mi venite a dire che la questione dei rifiuti è una colpa del Movimento 5 Stelle a Roma, perché è una cosa che non si può sentire, è una cosa pazzesca. I rifiuti, la mega discarica più grande d'Europa, tutto sbagliato nella gestione del ciclo dei rifiuti a Roma fino a ieri, è una cosa che va avanti da decenni. I 5 Stelle sono lì da meno di un anno, diamogli il tempo, vediamo. Ercolini ci dice che si stanno muovendo nella giusta direzione, noi ci fidiamo, poi sarà il tempo a giudicare. 800 24 00 24, cerchiamo anche un personaggio della settimana che è internazionale ma... e che è campione mondiale di taglio nastri. Puoi trovarmi alle 6 di mattina a parlare con gli ortaggi, sembra ma non parlo al vento, come fanno certi saggi. Mi sento più realizzato da quando ho cominciato a coltivare non più sogni, ma zucchine, broccoli e scaloni, e son rimasto senza fiato quando mi son ricordato che se un fagiolino vuoi, un fagiolino va piantato. Così ho capito, nella vita il significato e il valore inestimabile di un prato concimato. Si dice che l'orto vuole l'uomo morto. Allora, noi facendo questo programma siamo diventati grandissimi tifosi dell'agricoltura, un enorme serbatoio occupazionale italiano, un settore che va, che funziona, in particolare siamo tifosi dell'agricoltura di qualità e perché no di quella biologica. E allora questa settimana approvata alla Camera la legge sull'agricoltura biologica, ne parliamo con la seconda firmataria del testo, Susanna Ceni, deputata del PD, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. E a tutti gli ascoltatori. E allora, cosa prevede questa legge, che il titolo è Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico? Beh, è una legge, diciamo, che mette in campo alcuni strumenti di sostegno a questo modello di agricoltura, nel senso che si definisce il concetto di agricoltura biologica, si stabiliscono quali sono le autorità che se ne occupano, si danno, diciamo, degli strumenti alle imprese per mettersi insieme, alle filiere per organizzarsi, e si parla di biodistretti. Cioè? Fondamentalmente. I biodistretti sono una realtà che è già in campo, già in vita, diciamo, nel nostro territorio. Si tratta di territori in cui produttori, consumatori, istituzioni, competenze tecniche si mettono assieme facendo uno sforzo sinergico attorno alla produzione biologica. Esistono già delle zone del paese, possiamo fare qualche nome così qualcuno si riconosce? Io da buona toscana conosco bene quelle del mio territorio, quindi penso alle realtà del Chianti, di San Gimignano, ma sono diffuse già in tutta Italia. La cosa positiva ed importante è che sono esperienze che partono dal basso, nate quindi senza finanziamenti, senza input e definizioni normative già in essere, quindi vuol dire che sono davvero delle cose vere che non nascono per caso o per percepire. Cosa si può fare per uno dei punti deboli della questione del biologico? È che ci sono state delle inchieste che mettevano in evidenza come a volte questi marchi, bollini, certificazioni del biologico non sempre erano credibili, attendibili, rispettate, non c'erano controlli, insomma la gente sfida poco forse di questi marchi. Con questa legge si farà qualcosa anche in questa direzione? Allora, la legge non interviene direttamente sui controlli, perché sui controlli è in atto una delega in conseguenza del collegato agricolo e quindi il governo sta lavorando sul riordino del sistema dei controlli. La legge interviene più, diciamo, sul sostegno al sistema, imprese, istituzioni di riferimento, eccetera. Però il tema che lei pone è un tema assolutamente centrale. Fra l'altro i consumi biologici stanno crescendo il numero di imprese, quindi chi fa questa scelta fa una scelta consapevole, perché vuol consumare prodotti di qualità ma vuol anche contribuire, diciamo, alla tutela ambientale, perché una delle ragioni per cui l'Europa e tutti quanti spingono sul biologico è perché è un contributo alla riduzione delle emissioni, al consumo di acqua, eccetera. Quindi dobbiamo far sì che le certificazioni biologiche ovviamente corrispondano a realtà. Senta, un'altra questione che si dice, no, dell'agricoltura biologica è che, insomma, i prodotti che sicuramente avranno e hanno una qualità certificata dall'assenza di prodotti in qualche modo chimici, ha un costo però, no? Cioè si paga, costa molto, quindi è una cosa di nicchia per pochi, è così, è destinata a cambiare? Ma io credo che non sia più così, forse lo è stato in una fase iniziale in cui ancora non si capiva nemmeno bene cosa stesse dietro al biologico. A me pare che la crescita dei consumi e la crescita delle imprese in questo settore stiano testimoniando esattamente il contrario. Poi ovviamente bisogna stare attenti, perché io credo che qualche volta prezzi troppo bassi dei prodotti agricoli ci devono invece far preoccupare. Penso ad alcune produzioni come quella dell'olio di oliva. Insomma, quando troviamo prezzi troppo bassi sullo scaffale dobbiamo chiederci cosa c'è dentro a quella bottiglia, dentro a quell'imbuto. È una questione di cui parliamo spesso, giustamente anche proprio sulla questione dell'olio, per cui si dice che se costa meno di 4 euro è impossibile che sia veramente olio extra, esatto, vergine d'oliva. Solo che da un lato c'è questo, dall'altro c'è che uno non è sicuro di che cosa significhi biologico, perché ormai c'è scritto bio praticamente su qualunque cosa, quindi addirittura ci sono prodotti che costano tantissimo perché c'è su bio, in realtà non sono biologici, e quindi uno, diciamo, viene fregato due volte. Diciamo che l'unica certificazione biologica vera è quella che porta il contrassegno europeo, diciamo. Giusto. Quando c'è quello, dietro c'è un disciplinare, c'è una certificazione. Poi si può leggere tutto: naturale, bio, vegano, oramai c'è di tutto. Però l'unica vera certificazione biologica ad oggi è quella con quel logo europeo, quel bollino verde. Pensavo che ci dicesse che l'unica vera certificazione è quella di andare a piedi nei biodistretti, che uno dice, ecco, qui sono nel Chianti e berrò del Chianti. Ecco, le posso dire questo, che in queste realtà una delle cose interessanti è che anche buona parte del mondo del vino si sta indirizzando in questa direzione, mentre per molti anni c'è stata un po' l'idea che il vino biologico, tutto sommato, fosse anche un vino poco buono. Ecco, non è così. Ed è interessante perché quando, soprattutto in queste aree che si stanno riconvertendo a biodistretti, diciamo, si fa una scelta legata anche alle produzioni vitivinicole, si tiene assieme la qualità dei prodotti, il paesaggio ed anche una serie di produzioni di pregio. Ecco. Noi prendiamo atto intanto del passaggio alla Camera di questa legge che adesso va al Senato, una legge appunto a sostegno dell'agricoltura biologica. Viva l'agricoltura, gli agricoltori, quelli biologici, quelli no, quelli bravi, l'agricoltura italiana di qualità. Noi ringraziamo l'onorevole Cenni, grazie per essere stata con noi. 800 24 00 24, ascoltatori, su questo tema so che ci sono sempre interesse e sensibilità, anche perché la domenica è il classico giorno che si trascorre nell'orto, e nell'orto con la radiolina appesa all'albero, come fanno tanti nostri ascoltatori che in passato ci hanno chiamato. Quindi siamo qua anche per indovinare un personaggio della settimana che è un grande tagliatore di nastri, tagliatore di nastri. Vai. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta. Se ti fa da costituente, Renzi pesa parecchio, eh? Tanto deve accettare di venire a sedersi con voi, ha detto di lei vice contraddittore. Io non voglio scendere su questo terreno, peccato, perché Renzi ha abbandonato tutti i valori della sinistra, meno uno, lo stalinismo. Accusare chi se ne va. Io sono in pace con la mia coscienza, soprattutto perché non ho tradito i miei ideali. Vabbè, ma come faremmo se non ci fosse D'Alema? Bisognerebbe inventarlo. Uno, è incredibile, sta diventando fra D'Alema e Renzi una cosa bellissima. Cioè, non trovi? Io, pazzesco, vabbè. Allora, 800 24 00 24 è un genere a sé ormai l'intervista a D'Alema in tutti i talk show, nei giornali, certo. Continuano a intervistarlo. Ma smettiamo di intervistare D'Alema, che non c'ha più nulla da dire, secondo me. E ma, quindi per dire queste cavolate qua, sì, sullo stalinismo di Renzi, non lo so, credo, almeno poi mi sbaglierò io. Allora, andiamo con, se trovo la schermata, gli ascoltatori. Alessandro dalla provincia di Monza, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua, Alessandro, tocca a te, è il tuo momento. Volevo partecipare al gioco, secondo me è il principe Filippo. Il personaggio assediato è il principe Filippo, perché? Beh, perché è internazionale, perché è quasi 70 anni che taglia nastri ed è andato in pensione. Zac, secco, certo, così, semplice. Molto giusto, il personaggio è Filippo d'Inghilterra che ha annunciato il suo, stavo dicendo prepensionamento, però insomma avendone più di 90 forse neanche tanto pre. Ci è sembrato bello il personaggio, gaffer, autoironia da questo punto di vista, ma anche creatore di premi, impegno sociale nei confronti dei giovani in Inghilterra che gli è stato riconosciuto, insomma ha fatto diverse iniziative, un uomo che è sempre stato un passo indietro, cioè in questa serie, non so se Alessio la stai seguendo, questa serie The Crown sulla regina Elisabetta, adesso fra poco ci sarà la seconda serie e pare che la seconda serie sarà più incentrata sul personaggio di Filippo, che è un personaggio particolare perché ci occupiamo sempre della regina e ci chiediamo, ma quell'uomo che sta a un passo indietro, cosa pensa? Così un tuffo negli anni 80, questo sarà anni 80 nell'area di Marcella Bella, si ridacchia qua, si ridacchia. Allora, abbiamo poco tempo, però dobbiamo dedicarlo tutto a questo giovane imprenditore modello italiano che ha creato un vaso smart, un vaso particolare in grado di purificare l'aria ed è stato inserito tra le 10 migliori invenzioni del mondo. Paolo Ganis, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Uno dei soci fondatori della startup che si chiama Clary, come dobbiamo chiamare? Clary, sì, è il nome della startup Clary americana, ma c'è il nome anche di quella italiana che è Laboratori Fabrici. Laboratorio? Laboratori Fabrici. Ah, che bel nome, Laboratori Fabrici, perché a noi piacciono tanto quando si usa l'italiano, perché si capisce anche meglio, tra l'altro. Allora, è più facile da pronunciare, soprattutto per me. Infatti, raccontaci adesso, questo vaso. Aspetta però, perché dobbiamo dire qual era il riconoscimento. Tu sei stato inserito tra le 10 migliori invenzioni dal Global Youth non ce la faccio. Entrepreneur Award. Ecco, ma sì, Berlino. Sì, praticamente... Vai. È un premio, un riconoscimento, quindi sono stato selezionato tra i 10 finalisti di questo premio, che seleziona i migliori 10 imprenditori a livello mondiale. C'è l'evento che è stato questa settimana appena passata, che sono appena alternato. Benissimo, ci sono anche altri due soci, giustamente vanno ricordati, ma come diceva Carlo, parlaci di questo vaso delle meraviglie. Sì, allora, Clary è un prodotto fantastico, quindi è un vaso che purifica l'aria. Quindi sfruttiamo le proprietà di biofiltro che alcune piante hanno. Quindi noi abbiamo fatto dei test specifici che hanno scoperto che determinate piante hanno l'abilità di eliminare sostanze tossiche dagli ambienti, quali formaldeide, benzene, tricotilene. Dici subito che piante sono, che la riempiamo la casa. Allora, la sansevieria trifasciata, che è la lingua di suocera, lo spatifilium, l'anturium. A piante comuni, piante comuni, ma le però, scusami, scusami, ma che le piante puliscano l'aria, direi che è risaputo, nel senso che è una cosa che sappiamo tutti. Sì. Che cosa fa questo vaso? Praticamente quello che noi andiamo a fare è la fitodepurazione, avviene nelle radici della pianta e non nelle foglie come si potrebbe pensare. Quindi quello che dobbiamo fare è portare molta più aria nelle radici della pianta. Quindi abbiamo creato un sistema a doppio vaso con un'unità tecnologica dotata di sensori e ventola che forza molta più aria nelle radici in maniera corretta grazie ai sensori. E abbiamo dei sensori che captano i livelli di inquinanti nell'aria. Quindi grazie a questi sensori filtriamo la giusta quantità d'aria. Poi la cosa interessante è che c'è anche un modulino Wi-Fi e quindi si può collegare al proprio smartphone e si vede in tempo reale come il sistema stia proprio abbattendo i sistemi inquinanti e quindi rendiamo una pianta molto ma molto molto tra potente. L'altro dobbiamo dire, caro Paolo Ganis, che questa settimana purtroppo ci arriva la notizia che il 26 aprile è stato toccato il nuovo record di CO2 nell'aria, lo ha misurato l'osservatorio di Mauna Loa alle Hawaii, nuovo record 412 ppm. Quindi regaliamoli quattro vasi subito. Va bene, dobbiamo chiudere. Sicuro. grazie all'inventore. Grazie, Clary. Questa era l'ultima storia di questa settimana. Noi chiudiamo qua, ci risentiamo sabato prossimo con Si può fare. Un ringraziamento ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, Lorenzo Nespoli, Carmelo La Ricella oggi in regia. Noi ci risentiamo appunto sabato prossimo. Ciao a tutti da Alessio Maurizio e ciao da Carlo Gabardini e chi ci ascolta in podcast.